teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Vicond. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 4 settembre 2010 e benvenuti a una nuova puntata e a un nuovo anno di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E quest'anno fotonico, questo nuovo anno fotonico, lo cominciamo parlando di un argomento abbastanza strano. Parliamo dei tardigradi, che è un argomento che andremo ad affrontare col dottor Michele Cesari, assegnista di ricerca presso l'Università di Modena e a Reggio Emilia e membro del gruppo di biologia di Modena. Buongiorno, dottor Cesari. Buongiorno. Dottor Cesari, all'inizio della trasmissione cerchiamo di introdurre un pochino l'argomento. In realtà in tutta la trasmissione parleremo dei tardigradi, parleremo dei vostri progetti e cercheremo di parlare specificatamente di un progetto che si chiama MoDNA. Ma visto che quest'anno è l'anno internazionale della biodiversità e stiamo cercando di introdurre questo argomento proprio perché il 2 settembre lei ha parlato di questo argomento all'interno di un convegno di biologia evoluzionistica che si sta tenendo in questi giorni a Milano, che cos'è la biodiversità in 100 parole? Beh, la biodiversità è effettivamente il numero di specie che noi andiamo a studiare in generale nella biologia. È un concetto che è stato introdotto recentemente, diciamo negli ultimi 20 anni, soprattutto da Wilson, e appunto ci va a spiegare come effettivamente il numero di specie conosciuto da noi sia effettivamente molto più basso rispetto al numero reale di specie, che quindi gran parte della diversità è ancora sconosciuta all'uomo e soprattutto che la diversità è di capitale importanza anche per lo studio dell'evoluzione. Senza diversità non si ha effettivamente un qualcosa su cui la selezione possa operare e quindi è sicuramente uno studio importantissimo, forse uno di quelli cardine della biologia. Dottor Cesari è stato assolutamente sintetico, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione, come abbiamo già detto, parleremo effettivamente dei tardigradi, mentre nella seconda parte della trasmissione cercheremo di affrontare l'argomento della sua conferenza il 2 settembre del 2010, quindi due giorni fa, presso il convegno di biologia evoluzionistica di Milano, cioè IMMO-DNA. Thank you. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, all'interno di Caccia Fotone, almeno all'interno della prima puntata del nuovo anno fotonico di Caccia Fotone. Siamo al telefono col dottor Michele Cesari dell'Università di Modena e stiamo cercando di parlare con lui di tardigradi. Sono degli animaletti molto piccoli, invertebrati, che hanno delle proprietà molto particolari che appunto stiamo cercando di analizzare. Dottor Cesari, se lei potesse definire i tardigradi, come li definirebbe? Beh, dunque, i tardigradi sono animali microscopici, microscopici nel senso che senza il microscopio è difficile vederlo, mi raccomando non confondiamoli con i microbi che sono altre cose, nel senso che siamo di dimensioni che vanno da un quarto al mezzo millimetro e sono animali che vivono in parecchi ambienti, da quelli marini e d'acqua dolce, ma anche si trovano sulle terre emerse, come ad esempio nei licheni, nei muschi, nelle tiere di foglie, a patto però che ci sia un piccolo film di acqua che li circondi, quindi non sono in grado di vivere esattamente in condizioni secche, o perlomeno sono in grado di farlo perché sono in grado di attivare quella che viene detta l'anidrobiosi, cioè la resistenza all'essiccamento. Cioè in condizioni in cui il muschio per esempio si secca, questi animali sono in grado di fermare il loro metabolismo e quindi poi sono in grado di riprendere la vita. Quindi effettivamente sono degli eucarioti? Sono assolutamente eucarioti, sono animali, sono adesso come adesso un gruppo che è considerato molto vicino agli artropodi, quindi ovvero sia agli insetti, ai crostacei, ai ragni, non sono esattamente nello stesso gruppo ma molto affini. Gli inglesi addirittura li chiamano orsetti d'acqua perché la forma ricorda un po' quella di un orso, diciamo, ovviamente hanno quattro paia di zampe, quindi sono un po' diversi, però un pochino l'andatura è un po' lenta, un po' simile, uno ha visto un orso nei documentari, non sono tanto diversi da un certo punto di vista. Senta, dottor Cesari, quando vennero scoperti questi tardigradi e diciamo in che condizioni vennero scoperti? Ah, dei tardigradi se ne sa solo da quando è stato inventato il microscopio. Il buon Van Leeuwenhoek, che fu l'inventore del microscopio, guardò appunto all'interno di vari sedimenti di gronda, furono effettivamente descritti alla fine del 600, inizio del 700, e poi solo in realtà negli ultimi due secoli si è cominciato proprio a parlare di tardigradi come un gruppo a parte rispetto agli altri, anche perché essendo così piccoli è facile non notarli, in effetti. Oh, dottor Cesari, abbiamo parlato un pochino di dimensioni dei tardigradi, ma quando parliamo di dimensioni, per essere più precisi, a che dimensioni ci stiamo riferendo e se queste dimensioni sono visibili solo ed esclusivamente attraverso un microscopio oppure se si possono vedere in altri modi? Sì, allora, ci sono alcune specie che possono sfiorare il millimetro, quindi se uno ha un tardigrado all'interno di una capsula di vetro, con un po' d'acqua, in traslucenza qualcosa si vede, però in generale sì, un buon microscopio al diciamo 10x20 per permette di vederli in generale, comunque sì, ci vuole un microscopio, ecco, altrimenti è durissimo. Specie di tardigradi, quindi effettivamente quanti sono i tardigradi? Tardigradi al momento se ne conoscono circa 1000 specie, un po' di più di 1000, quindi non è un numero grandissimo in realtà rispetto ad altri gruppi animali, pensiamo ai coleotteri, ce ne sono almeno 500.000 se non di più, però in realtà secondo noi, e forse ne parleremo dopo con il progetto, è una biodiversità che è un po' sottostimata, nel senso che le dimensioni così piccole in effetti non aiutano una comprensione dei caratteri morfologici così come per altri gruppi, ad esempio gli insetti, non so per dirne uno. Ecco, giusto per farci un pochino gli affari di questi tardigradi, volevo sapere in che tipi di condizioni riescono a sopravvivere e se ci sono delle condizioni tali per cui i tardigradi cessano di vivere. Beh, innanzitutto hanno sempre bisogno, a parte appunto nei casi di essiccamento di cui parlavo prima, hanno sempre bisogno di acqua, quindi riescono a respirare l'ossigeno atmosferico disciolto all'interno del... E per quanto riguarda le loro abitudini alimentari, ne hanno svariate, nel senso che ci sono specie che sono fondamentalmente erbivore, quindi si nutrono di alghe principalmente, ma altre specie sono anche carnivore e si possono nutrire di tutti gli altri elementi della cosiddetta meiofauna, cioè della fauna di quelle dimensioni, ovvero sia altri tardigradi, perché succede, nematodi, rotiferi e così via. Quindi insomma hanno una dieta abbastanza variata e che può variare anche nella crescita, nel senso che magari i tardigradi neonati che appena schiusi dall'uovo sono principalmente erbivori e poi diventano carnivori successivamente. Professor Cesari, proviamo a fare per un attimo un gioco che possiamo fare solamente qui in radio perché non abbiamo la forza delle immagini. Da come ce li ha descritti lei, ci siamo immaginati un pochino come dei piccoli orsi, molto piccoli, con quattro paia di zampe o quattro paia di braccia, che è assolutamente ininfluente visto che non camminano eretti, anzi nuotano nell'acqua. E se li volessimo effettivamente descrivere nella loro composizione, nella loro forma, nella loro struttura, dal punto di vista estetico, quindi dall'esterno, uno scienziato come li vede al microscopio? Dunque, per il movimento è essenzialmente un movimento locomotore tramite le quattro paia di zampe lungo il fondo di solito dell'ambiente marino, sono in grado anche un po' di nuoticchiare in qua e in là, ma non sono particolarmente buoni nuotatori e soprattutto si muovono lentamente. Il nome stesso, tardigradus, vuol dire movimento lento, non sono degli atleti molto veloci, diciamo così, però diciamo che i nematodi poi sono in grado di prenderli tutto sommato, quindi se la cavano, ecco. Senta, la temperatura a cui vivono qual è più o meno? O almeno la temperatura a cui riescono a vivere qual è? Allora, la temperatura a cui vivono normalmente, diciamo, frescolino, nel senso che intorno ai 15 gradi stanno più che bene. Sono in grado di sopportare sbalzi di temperatura assolutamente enormi, nel senso che dai meno 200 a direi ai più 150 tranquillamente. Noi abbiamo campioni di muschio che teniamo normalmente nel nostro frigo a meno 80 gradi, quando diamo fuori il muschio e troviamo animali assolutamente vivi, senza alcun problema, e quindi hanno proprio una fortissima resistenza a tutti gli shock. C'è che li considerano gli animali più resistenti in assoluto, sicuramente. Dottor Cesari, le ho fatto questa domanda un po' per appigliarmi agli argomenti di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione, e uno degli argomenti di cui parleremo è appunto l'esperimento Life TARS, in cui alcuni tardigradi, un gruppo di tardigradi, sono stati sparati all'interno della capsula Photon M3 e si è visto che questi piccoli invertebrati riescono a sopravvivere a temperature pari allo zero assoluto, quindi è qualcosa di molto interessante per cercare di capire se nella loro sequenza genetica c'è qualcosa che permette loro una sopravvivenza in condizioni di vita così estreme. A questo punto ci lasciamo con un po' di musica, poi torneremo in studio e una volta tornati in studio parleremo del DNA barcoding, dell'esperimento Life TARS e del progetto MoDNA. Nothing. Count the Bentornati in studio, cari radioascoltatori, all'interno della prima puntata stagionale della sesta stagione di Caccia al Fotone, e in questa puntata stiamo provando a parlare di biologia evoluzionistica, in particolare dei tardigradi e delle loro proprietà, insieme al dottor Michele Cesari dell'Università di Modena. Stiamo cercando di parlare con lui dei tardigradi perché appena due giorni fa a Milano ha tenuto una conferenza proprio su questo argomento all'interno del convegno di biologia evoluzionistica che si tiene ogni 2 anni. Alla fine della prima parte della trasmissione abbiamo accennato un pochino all'esperimento Life TARS, un esperimento che ha svelato come questi piccoli invertebrati riescano a sopravvivere in condizioni molto estreme. Abbiamo accennato anche al fatto che questo esperimento vedeva coinvolti i tardigradi all'interno di una capsula sparata nello spazio, ma per cercare un pochino di avere qualche appiglio un pochino più scientifico, molto più di quello che vi sto dicendo io, lascio la parola al dottor Cesari. Effettivamente, che cos'era l'esperimento Life TARS che si è tenuto nel 2007? Dunque noi abbiamo avuto l'opportunità di fare questo volo spaziale all'interno di questa capsula che è appunto Photon M3, che è una capsula russa finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana, e abbiamo fatto volare i tardigradi in condizioni in orbita con animali sia in condizioni, diciamo così, tra virgolette naturali, cioè coperte loro fin d'acqua, ma non c'è stato praticamente nessun problema, nel senso che gran parte degli animali sono tornati indietro dopo 12 giorni nello spazio, all'interno della capsula, vivi, senza alcun problema, e studi anche di proteine di DNA hanno mostrato come non ci sia stato, soprattutto per il DNA, nessun danno, cosa che in effetti è stata abbastanza sorprendente, nel senso che evidentemente il DNA in quel caso lì non ha subito particolari danni, al contrario per esempio dei normali studi per esempio sui mammiferi, in cui si è visto per esempio che l'invecchiamento aumenta molto probabilmente dovuto a danni al DNA, e quindi in effetti è stato risultato abbastanza sorprendente da un certo punto di vista. Ve lo siete spiegato il perché? Dunque molto probabilmente si possono fare l'ipotesi che va per la maggiore è in effetti il fatto che in condizioni di essiccamento non c'è ovviamente acqua, e quindi molto probabilmente gli enzimi che normalmente vanno a tagliare il DNA e quindi e provocare danni, molto probabilmente non riescono a lavorare, e quindi ci sono diverse molecole che vengono coinvolte nell'essiccamento, una tra queste per esempio lo zucchero trealosio, che molto probabilmente sono in grado anche di impacchettare e proteggere determinate molecole, come ad esempio le membrane e tutto quanto, e evidentemente possono avere un effetto anche sulla protezione del DNA, insomma, e quindi ovviamente siamo agli inizi di questi studi, però potrebbero avere anche ricadute molto interessanti, nel senso che il trealosio è già stato visto, quello di cui parlavo prima, è stato visto che può aiutare a conservare cellule o altre, per esempio il sangue, nelle strutture ospedaliere, quindi effettivamente può avere una ricaduta anche importante per il genere umano. Ecco, non voglio forzare la mano, ma ci stiamo molto avvicinando a uno degli argomenti clou della seconda parte della trasmissione, cioè effettivamente quello che si chiama il DNA barcoding. Ecco, il DNA barcoding sarebbe l'analisi dei vari pezzi del DNA per cercare di capire quali sono quelli più fondamentali, quali sono quelli meno fondamentali. E all'interno dell'analisi dei tardigradi certamente questo è uno studio molto importante, perché cercare di capire quali sono le parti del DNA che permettono ai tardigradi di vivere in condizioni così estreme sarebbe di fondamentale importanza, sia per capire effettivamente come sono composti i tardigradi, ma anche per capire come potrebbe essere composto un organismo vivente capace di resistere a temperature e in condizioni assolutamente improbabili per un organismo vivente che vive sulla Terra. Ci vuole spiegare meglio che cos'è il DNA barcoding? Il DNA barcoding, o diciamo codice a barra genetico, giusto così ci capiamo anche magari più facilmente, è un tentativo di studiare effettivamente, di identificare le varie specie utilizzando una corta sequenza di DNA, e di utilizzare questa corta sequenza di DNA come se fosse un codice a barra come quello che utilizziamo nei supermercati per riconoscere i prodotti. Il progetto MoDNA o Morphology and DNA, cioè DNA e morfologia, o anche detto vorgalmente MODNA, visto che è quella di Modena e quindi l'acronimo è stato scelto in quel caso, e si propone di utilizzare il DNA barcoding, questa nuova tecnica sviluppata per studiare la biodiversità, però cercando di integrarla con i tradizionali studi di morfologia, nel senso che il DNA barcoding è stato proposto circa 5 anni fa, quindi abbastanza recente come tecnica, e accanto agli entusiasmi iniziali di utilizzo di questo codice a barre genetico, si è visto che in realtà a volte la sequenza di DNA da sola può creare più problemi che altro, nel senso che può essere in grado di non discriminare, oppure trova una variabilità che in realtà non è a livello specifico, cioè delle specie, ma magari a livello delle popolazioni diverse, e quindi l'utilizzo integrato di analisi molecolare da una parte, morfologica dall'altra, sicuramente corrobora e sostiene maggiormente i risultati ottenuti, sicuramente. Anche perché al giorno d'oggi si possono descrivere specie solo dal punto di vista molecolare, ma c'è bisogno comunque di un supporto morfologico. Senta, perché avete scelto proprio i tardigradi per questo progetto? Beh, i tardigradi sono un modello interessante proprio perché il numero di specie non è altissimo, e seconda cosa, non meno importante, è quella della scarsità dei caratteri morfologici. Sono animali piccoli, il numero di caratteri utilizzati per la diagnosi tassonomica non è così elevato, e può vedere se ha, diciamo, conservatività dal punto di vista morfologico corrispondeva effettivamente a una conservazione elevata anche dei caratteri molecolari. Quindi un modello molto interessante da questo punto di vista, proprio per vedere anche se questo DNA barcoding ha organismi piccoli che normalmente non vengono studiati, anche perché di solito si comincia da quelli un po' più facili, un po' più grandi, e invece in realtà sono importanti anche tutti gli altri, ecco. Senta, da chi è partito questo progetto e da chi è composto questo progetto? Perché in tutta la nostra trasmissione stiamo parlando di scienza, stiamo parlando dei tardigradi, dei vari progetti, ma dietro tutto questo c'è un team che ormai lavora da anni su questi argomenti. Certamente, il progetto è partito all'inizio del 2008, scientifico il professor Bertolani, che si occupa di tardigradi da parecchi anni ed è un'autorità, direi, in campo mondiale sui tardigradi, ed è composto da me e da altri almeno 3 o 4 collaboratori, il professor Saldi, dottoressa Altiero e il dottor Guidetti, e abbiamo diverse collaborazioni con diverse entità sia in Italia che all'estero, cito alcune, l'Università di Catania ad esempio, proprio per cercare di avere un maggior numero di conoscenze al servizio appunto del riconoscimento dei tardigradi, ecco. Quindi diciamo un po' lo step finale è cercare di collezionare quanti più dati possibili, quanti più sequenze genetiche possibili dei tardigradi ci siano in circolazione, per poi comunicarlo alla database GenBank, che è, diciamo, una banca, un'enorme banca open access in cui sono collezionati la maggior parte dei dati genetici. È un po' il principio base della scienza, no? Prendere, trovare, condividere e scambiare dati. Certo, ovviamente oltre a GenBank adesso sono nate altre entità a livello proprio di internet, consorzi che aiutano anche la diffusione dei dati nella comunità scientifica per quanto riguarda il barcoding. Uno di questi, per esempio, è il consorzio per il barcoding, il BOLD. Oltre ai dati molecolari che vengono solitamente inviati a GenBank, vengono anche un ulteriore dato che possa in effetti corroborare il dato molecolare. Infatti il problema grosso di GenBank è che molto spesso non c'è un effettivo riscontro tra l'analisi molecolare ottenuta e l'animale di cui in realtà si è studiato, perché in realtà a volte vi sono degli errori di cui purtroppo ci portiamo dietro per lungo tempo, nel senso che alcuni animali riconosciuti male vengono identificati con quel nome e successivamente cambiare i dati in GenBank non è una cosa così semplice. Quindi proprio cercare di creare un database il più corretto possibile, che poi possa anche essere punto di partenza per studi futuri che possono essere di filogenesi, di genetica di popolazione, in generale dell'evoluzione in generale, proprio però partendo da dati più o meno certi, ecco. Dottor Cesare, le faccio l'ultima domanda, in realtà l'ultima domanda ne racchiude due, quindi cercherò di essere conciso. La prima è quali sono i risultati che vi hanno più stupito nel corso di questi anni, intendo gli anni che avete dedicato allo studio dei tardigradi dal punto di vista genetico, e mentre la seconda invece è se il training fatto attraverso lo studio dei tardigradi dal punto di vista genetico attraverso il DNA barcoding permetterà di fare meglio il DNA barcoding non su organismi viventi piccoli come i tardigradi, ma su organismi viventi molto più grandi, per esempio come l'uomo. Cioè, insomma, se questa palestra fatta sui tardigradi potrà essere utile per l'analisi di DNA più complessi come quello umano. Beh, dunque, risultati più eclatanti, direi la biodiversità è molto maggiore di quanto ci aspettassimo, nel senso che quelli che erano considerati a suo tempo specie, in realtà si sono rivelati un'unica specie, si sono rivelati essere gruppi di specie, ovvero sia quelle, faccio un nome a caso che non dirà niente a nessuno in questo momento, però una specie che si chiama Paramacrobiotus rictersi, in realtà è composta da almeno 6 specie diverse, di cui molte di queste non sono distinguibili dal punto di vista morfologico, ma solo dal punto di vista molecolare, quindi le cosiddette specie criptiche. E da un certo punto di vista è sorprendente, però in effetti può essere a un certo punto anche inquietante, nel senso che molto spesso si dice vabbè, quella specie lì è presente dappertutto, anche se eliminiamo quella popolazione, pazienza. In realtà non è proprio così, nel senso che la diversità è molto più grande di quella che noi ci aspettiamo, e quindi prima di distruggere determinati ambienti sarebbe meglio pensarci un po' prima. Altre applicazioni, più che per l'uomo, in realtà molto probabilmente si possono ottenere risultati secondo me paragonabili soprattutto per animali di queste dimensioni. Penso ai rotiferi nematodi, soprattutto i nematodi, un altro gruppo che ha una conservazione morfologica molto elevata come i tardigradi, e in realtà un numero di specie che è ancora maggiore, e forse utilizzare le stesse tecniche che più o meno abbiamo messo a punto noi per i tardigradi anche per i nematodi potrebbe essere molto interessante. E con questa risposta finale del dottor Cesari si conclude questa prima puntata stagionale di Cacciafotone. Come avete sicuramente ascoltato, l'ho fatto un po' in apnea per via di un brutto raffreddore che mi sono preso, ma posso dire che questo raffreddore me lo sono preso, udite udite, quando stavo pestando il meridiano principale di Greenwich, quindi, come si dice in gergo, so sempre soddisfazioni. A questo punto saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone. Siamo ritornati, come notate, e buona scienza a tutti. Grazie, dottor Cesari. Grazie a voi, arrivederci.